Se il mio scopo è fare fuoco in un attimo, con il suono della core dentro l'addenso. Compare di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Compare di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Venuto a Firenze città, come tanti lascio la mia terra per una possibilità. Ma la mia città non è questa qua. Il mio sangue ribolliva prima per la troppa incompatibilità. Manzish, ormai 4 anni in Toscana. Anchiana, sub e sud, a nord e sub, bolo Carrara. Studio e mi sbatto durante la settimana. Ompara, cacce sempre tante chi para. Tra scazzi da fitti di casa e l'amore che brucia per lei più del sole. Sostiene me, rendendomi migliore. Con te in giro ovunque gli alpure senza le suole. Boom, nu subwoofer, lu posto do cora vatta. La passione per il reggae o vatta. Il mio pensiero, ca non s'accatta. Uvidi buono puro si tegna cataratta. Compare, di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze, disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Compare, di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze, disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Firenze, città dell'arte e della cultura. Dove se sei giovane avere spazi è dura. Dove paghi milioni per avere quattro mura. D'inverno muore freddo ed estate mori da calura. Mi piglia l'assura, brucio come un cielo. Per entrare in una chiesa in centro minimo 5 euro. Ma qua fanno sul serio, dico davvero. Tutto ruota sul turismo, quindi ruota intorno al dinero. Tutto costa di più, tutto costa troppo. Al mercato delle cascine qualche cosa l'ha svolto. Assorto guardando l'Arno e il suo tramonto. Ricordo quante volte questo gelo mi ha sconvolto. Conoscenze ormai molte, quelle in un domani. Saluto agli amici, agli infami. Bravi a sbavare manco foste dei caninani. Vi spezzo come il vento fa con i rami. Compare, di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze, disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Compare, di quinta vita mi è un po' in generale. Studio a Firenze, disegno industriale normale. Vita tranquilla in generale, se me lo chiedi rispondo non male. Vado in giro senza bici, faccio cin cin con gli amici. Aperitivi quantum in da bici. Esiste a San Lorenzo un posto che si chiama Gigi. Esistono posti dove sanguina non ha ricci. Sta coca, c'è non sacco e non è poca. La gente se la vive e crede che la vita è loca. Non si gioca, costa roba. Gente coi soldi che la vera vita snobba. Sporca la città come il battistero. Solo che lo sporco è coperto da un velo. Se la vivi fino in fondo sai che è tutto vero. Firenze si trasforma di notte, non è un mistero. Eh sì, anche questa qua è Firenze città. 2008, AND, Manzish, Flow. Il mio scopo è fare fuoco in un attimo, con il suono dell'arcore dentro l'addenso. Il mio scopo è fare fuoco in un attimo.